as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci di nuovo qui a Il pane delle rose. Due settimane fa ho fatto una puntata sulla morte di quel lavoratore sui binari. Avevo detto che su quelle sono puntate che sono, a me fanno stare molto male, non mi piace fare. Io preferisco fare le puntate in cui i lavoratori vincono le battaglie sindacali. E si parla di temi importanti, però di qualcosa che ci fa sperare, che ci fa vedere, ci fa immaginare un mondo migliore. Battaglie vinte sono le cose più belle da raccontare in radio. Però questa volta, così come le altre volte, ma forse ancora di più, oggi è doveroso ricordare quello che è accaduto mercoledì 23 di ottobre. C'è stato lo scoppio della Toyota che fa carrelli elevatori. Voglio ricordare a tutti, visto che ci seguono anche persone che, insomma, che non sono di Bologna, che ascoltano le puntate in podcast, una fabbrica che sta nel territorio di Bologna, ma vicino a Calderara, molto vicino dove lavoro io, dove ci sono tantissimi lavoratori che conosco, con cui ho fatto delle battaglie e continuo a farle. È una fabbrica a noi della Bonfiglio dei Riduttori, che ci sono tante cose che ci legano, oltre all'amicizia, alla militanza di compagni che sono là dentro, sia politica che sindacale. E voglio ricordare a tutti che i due che sono morti, che non possiamo assolutamente dimenticare, dobbiamo dire nome e cognome. Parliamo di Lorenzo Cubello e Fabio Tosi. Lorenzo Cubello è stato anche il delegato della FIOM tanto tempo fa. Chiaramente lo conoscevo. Erano due giovani che lavoravano. C'è un altro che in condizioni gravi e tantissimi feriti. Abbiamo intervistato, siamo stati lì la giornata di lutto, che non è stata una manifestazione. Io lo dico, l'ho dichiarato anche alla stampa che mi ha intervistato, ero lì a fianco dei lavoratori, come tanti altri lavoratori che sono venuti in maniera spontanea. Era un presidio in cui dovevano andare solamente i delegati sindacali in rappresentanza delle fabbriche, ma tanti lavoratori in maniera spontanea si sono presentati a depositare i fiori. Davanti a Toyota c'erano tantissimi fiori, tantissimi. Sono venuti tanti compagni a rendere omaggio e a stare vicino ai lavoratori che erano scioccati. E lì abbiamo intervistato Pino Sicilia, un ex delegato della FIOM, adesso è un delegato della UIRM, RLS, è anche un mio amico. Lui ci racconta quello che lui ha visto, perché è intervenuto subito. Come RLS, dopo 6 minuti dell'esplosione, era già lì ed è stato vicino alle due vittime di tutto il tempo, fino a quando non sono stati portati via dall'ambulanza. Ecco, è una testimonianza difficile, per me è stato durissimo intervistarlo, perché forse questa volta l'ho vissuto in maniera anche molto personale. Ecco, adesso ascoltiamo un pezzo che io metto sempre in radio quando accadono queste cose, perché voglio ricordare a tutti, lo diremo nell'intervista, poi ne parleremo un po' quando faremo le conclusioni, che noi come militanti politici e militanti sindacali, come compagni, come operai che si battono tutti i giorni nei luoghi di lavoro, non accettiamo assolutamente il concetto di fatalità. Non è arrivato un asteroide, non è cascato un aereo, ok? Ecco, è per questo che metto questa canzone, per ricordare a tutti qual è il vero dramma oggi in Italia e qual è il vero problema della sicurezza oggi in Italia. Dove sono i compagni che possono fermare quelle mani assassine? Allora, ciao Pino. Ciao Gianpla. Allora, oggi sono quelle cose che uno non vorrebbe mai fare. Sono quelle situazioni in cui non ci dovremmo mai trovare, però è successo. È successo e purtroppo io insomma non c'ho parole. E io ti chiedo a te di raccontare, perché io so che tu eri là, sei stato con i ragazzi fino alla fine, li hai visti, insomma, eri là. Raccontaci un po'. Ciao. Se ce la senti. Sono Pino Sicilia, RSU Toyota della Wind. È successo questo, Gian Placido. Sai, tu sei in questo, sei bravissimo, hai più esperienza di me, sai perfettamente che questi eventi come RLS e RSU facciamo fatica a prevenire se nel TVR non è evidenziato che un'apparecchiatura può causare un danno di tale rilevanza. Quindi era, per noi RLS era difficile prevenire questo. E la domanda che mi pongo da due giorni a questa parte, potevo fare di più? Perché è successo questo. Noi avevamo proclamato 2 ore di sciopero per problemi legati all'ergonomia, per problemi legati all'impiantistica, all'indotto produttivo. Questo boiler, questa apparecchiatura, adesso ci sono gli ordini competenti che indagheranno, non era legata al sito produttivo, cioè non era legata a un'attrezzatura da lavoro. Serviva a rafrescare, al ricircolo dell'aria. Se questo, come dicevo oggi prima, la certezza non ce l'ha nessuno. No, è meglio ribadirla. Bravissimo Gian Placido, bravo. Perché anche l'azienda su questa è stata molto titubante, nel senso, sì, per noi, bene o male, la casistica, perché là dove è successo l'evento c'era piazzato questa struttura. Quindi anche l'azienda, come hai detto bene te, è stata un po' restia, certo, a dire aspettiamo gli approfondimenti degli enti competenti. Quindi stavo dicendo che non è legata, quindi nel DVR come RLS la domanda che mi sto ponendo è questo qua: come potevo stare, evitare questa problematica? E la domanda, la risposta non ce l'ho, perché come ti dicevo prima, se non c'era, come potevamo noi andarne a monte a gestire il DVR? Noi facciamo il DVR annuale e quando facciamo delle modifiche viene fatto il PDR, la valutazione del rischio, e viene subito rimodellato il DVR. Ma delle volte anche quotidianamente lo facciamo. Qua non abbiamo avuto modo di poter evidenziare la criticità di questa macchina. E ripeto, noi RLS abbiamo l'arco ma non abbiamo le frecce, perché oltre a fare dei corsi, se chi dovrebbe controllare non ci dà una mano, noi come RLS possiamo fare, lo facciamo quotidianamente, ma se abbiamo una media di ispettorato del lavoro che controllano le nostre aziende una volta ogni 25 anni, come RLS tu puoi segnalare tutto quello che vuoi, ma se non c'è la pena, in Italia manca quello. L'81-2008, la domanda che vorrei porre agli organi competenti, a chi dovrebbe controllare, è: quante volte in Italia è stato punito qualcuno per aver manomesso o non aver fatto il suo lavoro, non aver applicato l'81-2008? Posso avere questo dato? Quanti ne abbiamo in Italia che hanno pagato per non aver applicato l'81-2008? Ci sono casi esemplari, ci sono tanti casi in Italia. Tipo la ragazza, quella che... quello è, se noi non diamo un segnale forte e concreto, dove diamo delle pene esemplari, noi in Italia conteremo sempre 3 morti al giorno. La cosa che ti chiedo è... hai sentito parlare anche molto... ho parlato un sacco di lavoratori, tu sai, noi siamo legati... Sì, certo. Siamo legatissimi, buon figlioli, certo. Siamo qua vicino, ci conosciamo da tanti anni, abbiamo sempre fatto le battaglie insieme. Parlando di un sacco di lavoratori, c'è chi diceva, si è allagato quel punto lì. Sì. E hanno acceso i riscaldamenti. Bravissimo, sì, l'ho detto pure io ieri. È successo questo. Una serie di concause. Adesso non sappiamo se ieri è stato acceso il riscaldamento, se questo possa influire a innescare qualcosa. Questo. C'è stato l'allagamento là, infatti sotto noi abbiamo tutta la roba, il vestiario da portare alle lavanderie, perché è tutto allagato sotto. Bisogna andare a vedere se qualcuno, prima di accenderlo, se l'hanno acceso, se abbia fatto quello che doveva fare. Spero che gli enti competenti facciano luce su tutto, perché abbiamo bisogno di chiarezza, abbiamo bisogno di non trovare il responsabile, perché ormai me Cubello, il mio amico Cubello e il mio amico Tosi non me lo dà più nessuno. Certo. Però devono pagare. Si devono prendere le responsabilità. Chi ce le ha? Cioè domani, dopodomani, fra una settimana, chi gestisce la sicurezza nelle aziende, soprattutto in quelle medio piccole? Questa è la grande, Siamo i Toyota. Deve capire che rischia. Vogliamo parlare di quello che è successo a ThyssenKrupp? Certo. Vogliamo parlare di quello che è successo alla ragazza col macchinario per farla lavorare di più? Se non si danno pene esemplari, se i nostri datori di lavoro non capiscono che abbiamo famiglie a casa che ci aspettano, e tornare dalle nostre famiglie è la cosa più importante di tutte, ma lo dico io, lo dice la Costituzione italiana, lo dice l'81-2008, lo dicono varie leggi. Siamo punti a capo tutti i giorni. Allora, una delle cose che tu hai detto, io ti ho sentito parlare prima con i lavoratori, hai raccontato i momenti, quelli che ti tieni per te, però c'è una cosa che mi ha colpito E quando hai detto mi sembrava di stare a Gaza, perché sì, tu eri dentro, hai visto l'esplosione. Ho pensato, sì, Giampla, ho pensato, ho pensato cosa potessero provare, io l'ho provato per 10 minuti, cosa potessero provare i bimbi di Gaza. È una roba devastante, perché ti senti, ti vedi cadere di tutto addosso, vedi che roba, le persone che uscivano sangue, chi con diti, chi zoppicava, chi con ferite, chi con vetri, tutti bianchi, tutti fatti, e ti senti il rombo, ti senti e devi essere lui. Io non so come fanno, chi sta sotto i bombardamenti. Ho provato, ci pensavo ieri sera, ho avuto quella sensazione là e mi sono fatto la domanda, ma è così? Provano questo tutti i giorni? I lavoratori che erano lì, io ho parlato con qualcuno che è rimasto un po' ferito, mi ha detto che lui era convinto che fosse stata una bomba. Sì. Una bomba, un aereo che è caduto. Un aereo caduto. Perché? Cioè, che fosse esploso, un aereo che fosse esploso. È stata dilaniante, ha dilaniato mezza azienda. Cioè, per farti capire, per chi ci ascolta, ha buttato giù in un frangente di secondo un muro di 60, spesso 60, alto 8 e lungo 10, ancorato, perché era antisismico, c'avevamo pilastri antisismici, capito? Ha fatto volare, per far capire a chi ci ascolta, il motore di aspirazione che pesa 46 kg è volato a 80 metri di lontananza, cioè i vetri della mensa che dista 300 metri di distanza l'ha rotti, tutti i vetri dell'azienda spaccati, i vetri degli uffici rotti, le porte in vetro degli uffici dilaniate. Ma la domanda che si fanno tutti, che mi faccio anch'io, è giusto avere una cosa del genere dentro un'azienda? Bravo, è quello che vogliamo capire insieme agli enti, ma anche Toyota deve capire come mai abbiamo collocato tale struttura senza verificare i dati tecnici, oppure quando l'abbiamo comprata e installata ci siamo resi conto della pericolosità, abbiamo dato i dati tecnici. Se abbiamo letto i dati tecnici, come mai non l'abbiamo evidenziata nel DVR? Capito? Cioè, è per questo prima, Giampla, tu sai che tu hai esperienza, dicevo, come potevamo prevenire una cosa del genere? Perché era esterna all'azienda, tutti i lavoratori... non era collegata al sito produttivo, non serviva alla lavorazione che facevamo dentro. Qualcuno di sicuro ha sbagliato, perché non voglio che si parli di fatalità. No, io quando sento parlare di fatalità sui luoghi di lavoro, ci può stare, cioè, non è cascato un meteorite, ecco bravo. Spieghiamo alla gente, non è cascato un meteorite e non è cascato un aereo, era dentro le mura della nostra azienda. Okay. Non è cascato manco un aereo. No, ecco. No, quindi no, non voglio, quel termine là a me non piace. Ok. L'ultima cosa che ti chiedo è il ricordo dei tuoi colleghi, di chi oggi rischia ancora e mi è messo male. E con i colleghi, con Cubello. Con Cubello mi sono preso il caffè alle 3. Siccome calabrese come me di origini. Sì, lo so, conosco pure io, conoscevo. Sì, perché è stato il nostro candidato, insomma. Cioè. Ho detto Cubè, ma sei sempre il solito. Scusatemi. Ho detto Cubè, sei sempre il solito. E tu mi hai scavato come sei bianco. Hai fatto 2 giorni di mutua. Poi ti lamenti che ti scalerà muro e non prendi soldi. Lui mi fa, va bene, offrimi il caffè. Tanto tu sei sindacalista del cavolo. Domani fai sciopero, io sto dentro e mi pagano senza lavorare. E tu vaffanculo. Cubè, sei proprio. Sì, era diventato preposto. Sì, sì, sì, era Jolly. Invece con Tosi, a Tosi l'avevo chiamato 40 minuti prima, perché con Tosi condividevamo insieme la passione, perché siamo due nerd, quando avevamo passione dell'ego e di One Piece. E gli dovevo dare la la navicella di Star Wars della Lego e ci stavamo mettendo d'accordo, lui mi dava D2 e io gli davo la navicella di Star Wars dei 25 anni. E vederlo a terra, vedere la stella è stato devastante, perché sono stato con lui fino all'ultimo, fino a quando i vigili, giustamente, che ringraziamo, i vigili sono stati tempestivi, come il 118, come le forze dell'ordine, sono stati bravissimi. E forse se un collega dei nostri è salvo è grazie all'intervento dei vigili e delle forze dell'ordine. A Tosi l'ho tenuto sveglio e al vigile ho detto: io qua fino a quando non vedo Tosi deve uscire con me, fino a quando non esco mi fa il vigile: non siamo in sicurezza, deve andare via, perché ancora c'era gas, c'era acqua che cadeva, c'erano detriti, stiamo parlando di 6 minuti dopo l'evento, 6 minuti dopo lo scoppio. E Tosi ha reagito 2 volte. Fino alla fine ha cercato, si è attaccata alla vita. Sì, è una persona forte, oltre ad essere un grande uomo, è un grande... un grande ragazzo. Il miglior modo per ricordarlo e per rendere onore alla loro vita è quella di arrivare fino in fondo. Di ricordarsi i loro sorrisi, perché lavoravano, lavoravano, sudavano, ma lo facevano nel rispetto dei colleghi e sempre con lo sorriso. Noi non li dimenticheremo mai. No, no. E quindi continueremo la nostra battaglia. Fino. Sempre. Fino alla fine qualcuno deve pagare, anzi qualcuno pagherà. Grazie Pino. Scusa. Grazie a te Giambla. Volevo dirti tante cose ancora, da non saperle ricordare, raccontar di te che dormi mentre corro al lavoro. Avrei voluto aggrapparmi ancora al calore del tuo ventre, dalla mia cella senza sbarre, maledetta linea 5. Oh, che corri, insegui le tue cose, le tue spine, le tue rose, non scordarti mai di me. Tu che sogni terre sconfinate e i fantasmi dell'estate, non scordarti. Non ti scorderemo mai, non ci dimenticheremo mai di te. La banda popolare di Emilia Rossa questa canzone l'hanno dedicata ai morti della ThyssenKrupp, ai martiri della ThyssenKrupp. Noi non dimenticheremo mai quando i criminali, perché li possiamo chiamare così, quelli sì che li possiamo chiamare criminali, anche perché sono stati condannati dalla magistratura. È stato accertato che ci sono delle responsabilità chiare in quella strage da ThyssenKrupp. Aspettiamo ancora la giustizia, di che sono scappati in Germania e casualmente nessuno li va a prendere. Non dimenticheremo mai quando a Bergamo, alla conferenza di Confindustria, sono entrati all'interno e sono stati applauditi questi criminali da tutti i padroni italiani. Ecco perché noi continueremo a lottare perché non ci siano più padroni in questo mondo. Soprattutto quei tipi di padroni che applaudono dei criminali che hanno delle responsabilità accertate sulla strage della ThyssenKrupp. Invece in questo caso Pino lo dice chiaramente, io lo dico chiaramente, ad oggi non si conoscono le responsabilità. Non si conosce ancora bene come siano andate le cose. Ma noi abbiamo fatto delle supposizioni, noi siamo dei tecnici. Lui è, vi ha svelato che anch'io sono in RLS, sono tanti anni che faccio l'RLS, ho fatto anche degli studi in passato università per quanto riguarda i tecnici della sicurezza sul lavoro. E come tecnici, chiaro, dobbiamo fare delle supposizioni, perché è compito di chi fa il nostro lavoro, rappresenta i lavoratori per quanto riguarda la sicurezza, fare delle valutazioni, fare delle supposizioni, perché serve per il futuro, serve per capire le responsabilità, ma serve anche per capire come agire per il futuro. E sono tutte supposizioni, non siamo noi che dovremmo giudicare, ma quello che noi chiediamo è che laddove siano riconosciute delle responsabilità, le persone paghino. Non succeda come è successo a Marghera, tutte le persone che sono morte all'interno di Marghera, come è successa la questione dell'amianto a Monfalcone, no? Tutte le persone che sono morte di asbestosi, ma chi ha pagato? Così come quelli della ThyssenKrupp che sono ancora a piede libero, che aver avuto delle responsabilità ben precise. Anche lì c'erano delle mancanze della sicurezza. E in Toyota ci sono state delle mancanze? È vero che nel DVR non era indicato questo scambiatore enorme? Questo scambiatore così potente, era giusto metterlo lì, tenerlo lì e tenerlo in una fabbrica del genere? Cos'è successo quando c'è stata l'alluvione? Cos'è successo quando si è acceso i riscaldamenti? Sono stati fatti tutti i controlli previsti? Ora, ci sono stati dei morti, ci sono stati dei feriti, ma anche se non ci fossero stati dei morti, una cosa del genere non può essere accettata e bisogna che vengano puniti, bisogna che ci siano i controlli. Però il problema io penso che sia molto molto molto in alto. La questione è molto semplice. Spesso, non parlo in questo caso della Toyota, nel caso specifico, però sappiamo una cosa, che ci sono due questioni in Italia. Uno, che ci sono gli appalti, dei subappalti, degli appalti che creano i morti. La stragrande maggioranza dei morti non sono casi come quello della Toyota, sono casi di persone che muoiono, che spesso sono appalti di subappalti, e questo lo fanno per risparmiare anche sulla sicurezza in questo caso. Ma spesso ci sono delle situazioni in cui si sottovalutano dei rischi, perché fondamentalmente spesso non avvengono i controlli e si rischia e si affida al caso, ci si affida al destino. Tanto chissà quando mai mi arriverà un controllo. Poi io sono un'azienda importante, sono un'azienda che fa tutto, molto conosciuta, faccio tutto quello che devo fare, sono anche certificata, faccio tante certificazioni, vuoi che vengano mai a farmi un controllo? Questo non accade. Non accade quasi mai nelle grandi aziende che sono tutte in regola, che fanno tante cose, che compilano vari moduli, che anche chiedono di non pagare, di avere gli sgravi INAIL, perché sono aziende molto molto d'avanguardia come certificazioni, e poi bisogna vedere chi è che ti certifica, no? Ecco, e allora il sistema va cambiato. Un sistema capitalista fondato sul profitto, la sicurezza dei lavoratori non viene messa al primo posto. Un'azienda che non produce prodotti per il benessere dell'umanità, ma produce denaro, perché come diceva Ford, io sono un capitalista e io non produco macchine, io faccio soldi, è chiaro che la sicurezza non è al primo posto. La sicurezza viene sempre dopo il profitto. Allora, o cambiamo radicalmente la società e fondiamo una società non più legata sul profitto, ma legata sulle esigenze del mondo, le esigenze dei lavoratori e la sicurezza dei lavoratori che è la prima esigenza, oppure avremo sempre morti sul lavoro. Ecco perché dobbiamo combattere questo sistema. Certo, è giusto chiedere più controlli, è giusto chiedere che chi ha sbagliato paghi, ma non risolveremo mai il problema se non risolveremo alla radice la questione che il capitalismo porta barbarie, porta guerra e porta morti sul lavoro. Questo è un dato di fatto. E per questo vi invito, compagni, a organizzarvi, a lottare per cambiare questo sistema e rendere questo mondo migliore. Un saluto a tutti e ricorderemo sempre Lorenzo e Fabio. Orgulloso de estar entre el proletariado.